Parto di vostra mente, fetere sai lontana, canta una burda su napoletana. Canta una petra mente, o gol faccio scompare, a luna mezzo mare, non può connare. Santa Lucetta tiene sulla luna poca mare, ma che lontano stai, che io bella pare. E canta da serena, canta s'ancora d'arezza, non richiede se non ciao. Grazie, grazie amore, amore. Ok.